24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Io personalmente un politico che viene indagato per corruzione lo indagherei per alto tradimento, se dovesse dipendere da me, perché uno che prende delle tangenti tradisce il mandato, l'onore sul quale aveva giurato. Alto tradimento, dice Matteo Renzi, di questo dovrebbe essere accusato chi è corrotto, chi è corrotto. Diciamo che questa è 24 mattino, che sono le 6:32 minuti, che si chiude oggi la 57esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Nonché la 57esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Magari la 58esima sarà quella decisiva, adesso staremo a vedere. Non chiedete tutto subito, cari italiani, ci vuole un attimo di pazienza, ci vuole un attimo di tenacia, ci vuole un attimo di convinzione. Vuole la zappa da 7 kg. Magari anche la zappa da 7 kg, ci vuole anche quello. Intanto voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, come il nostro Pietro Lacorte in regia, che ci ha accompagnato questa settimana. Non lo so, settimana prossima verrai rottamato come Renzi? Sì, verrò rottamato. No, ti sposteranno di turno e dormirai. Quindi voglio dire, tutta salute. Allora apriamo il Parlamento alle 6:33 minuti, dai. Un caffè? Sì. Il caffè volentieri a tutti quanti. Volentieri. A tutti quanti. Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Ho visto che è rispuntata Nicole Minetti, tra l'altro, in qualche foto molto casta, in qualche luogo di mare. E va bene, beata lei. Voglio salutare intanto Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama. Caro Maurizio, come va? Buongiorno Alessandro, bene, grazie. Spero tutto bene. Sì, tutto a posto. Così come saluto Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno Rienzi. Buongiorno a come voi va? Tutti. Come buongiorno. Va? Tutto a posto? Insomma, sì, andiamo avanti qui, tra una cosa e l'altra. Adesso tranquilli che arriva il DASPO per i corrotti. Non vanno più allo stadio? Esatto, non vanno più allo stadio. Non vanno. Vabbè, questa è una buona notizia. Non possono scambiarsi mazzette nelle curve, eh? Ecco. Non posso. No, allora io dico una cosa, bisogna avere fiducia, questo sempre, ma... ieri Gian Antonio Stella raccontava che 156 sono i detenuti nelle carceri italiane per reati contro il patrimonio economico e finanziario, no? 156, lo 0,4%, 156. Però, caro Maurizio Tortorella, adesso via tutti i corrotti, via, basta, risolveremo tutto. E finora cosa abbiamo fatto? Finora eravamo puliti, pulitissimi, non, Tempo la chiamavano bustarella, hanno cambiato un sacco di parole, poi è diventata la dazione ambientale, poi è diventata, adesso c'è lo stipendio, se è vero, se sono vere le cose che saltano fuori dall'inchiesta di Venezia, è veramente un disastro totale. Anche perché Venezia, così come Milano prima di lei per l'Expo, così come Siena per le manifestazioni sul Monte dei Paschi, sono tre città che sono in cima sì. Sotto gli occhi del mondo. E certo, quindi... eppure in carcere non c'è nessuno per reati contro, è un po' strana questa cosa, no? Arresti con custodie cautelari ce ne sono, evidentemente non ci sono detenuti definitivi per condanne definitive. Questo fa pensare. Appunto, fa pensare, ma voglio dire, fa pensare che o tutti gli arresti sono fatti così e poi dopo niente è confermato, oppure non lo so, oppure siamo un popolo più sano di quanto si pensi, no? Ma sai, leggevo che la Germania ha più detenuti condannati per motivi fiscali di noi. Anche questo fa pensare. No, ma non è, appunto, non è che sono peggiori di noi, è che non lì crediamo, è che ovvio lì che no, ovvio, ovvio che no, ovvio la che vicenda no, di Uli Hoeneß insegna corruzione, 2 anni e 6 mesi, ha detto ho sbagliato, vado in carcere, sconto la pena. La cosa che fa pensare è che anche in questa vicenda, così come in vicende precedenti, sono saltati fuori indagati e arrestati altri ufficiali della Guardia di Finanza. Si parla di capacità da parte dell'organizzazione criminale presunta di intervenire addirittura sulla Corte dei Conti, alterandone le carte, alterandone i giudizi sulle opere pubbliche in via di costruzione. Sono cose pazzesche, folli, sconvolgenti. Poi bisogna leggerle le intercettazioni, caro Rienzi, bisogna leggerle per capire, senta un po' qui che dicevano a un certo punto, metti tutto su carta mangiabile, che se arriva qualche controllo la carta, come sarà fatta, Carlo Rienzi, la carta mangiabile? No. Ma io vorrei dire al presidente Renzi che il Covagons fece il ricorso per il MOSE al TAR del Consiglio di Stato, dicendo le cose che poi oggi vengono fuori, poi fece ricorso per Expo un anno fa, dicendo le cose che sono venute fuori. Adesso ha fatto ricorso per la centrale Enel di Torre Valdaliga, la cui AIA è stata firmata da Corrado Clini. Aspettiamo la sentenza. Forse se ci si prende un po' di associazioni di cittadini come consulenti, meglio. Fa meglio, vabbè. Però a parte questa, che avete la sfera di cristallo, vedete? Ma no, ma perché si capisce chiaramente il MOSE, ma che cavolo serve? Cioè si capiva che era una cosa del tutto inutile. E scommettiamo che non funzionerà. Ma un conto, un conto se è forza del mare. Ma sì, ma un conto è se è utile o inutile, no? E questa è un'altra cosa, cioè l'utilità dell'opera. Poi magari ne discutiamo, però almeno facciamola senza le mazzette. No, sono legate le cose, perché le cose legate. Utili si fanno presto, bene e costano poco. Le cose inutili invece, siccome non funzionano, poi bisogna fare 40 varianti. Bisogna fare, e quindi sono soldi, non so se è chiaro. È chiaro. Vabbè, ma la carta mangiabile, ha capito? La carta mangiabile è quella fatta di riso, carta di riso. Esatto. No? Io me la immaginavo, non so, di pan di zucchero, Maurizio, tu l'hai mai vista la carta mangiabile? Oh, no, scrivi tutto su carta mangiabile, che se arrivano i controlli, no? Perché c'è sempre un po' del ridicolo, poi c'è quello all'Expo che si metteva le mazzette, i post-it nelle mutande, quando è arrivata la Guardia di Finanza, c'è questo con la carta mangiabile, e c'è sempre questo lato tragicomico, no, Maurizio? Mario Chiesa buttò i soldi nel cesso. Certo, sì, infatti le banconote nel cesso. C'è questa fine un po' così, come definirla, quando vengono beccati, nel senso dal punto di vista proprio dell'arresto, il momento dell'arresto. Un po' tragicomica, sì. Vabbè, ma arriva adesso, cioè, la questione è cosa può fare Raffaele Cantone, che tra l'altro io avrò ospite alle 8:45, parlerà qui a Radio Media. Che può fare Maurizio? Cioè, può davvero con maggiori poteri a un uomo e a una sua struttura risolvere qualcosa? Ma guarda, io sono un po' scettico, se posso dire. Non per sfiducia nei confronti di Cantone, che tutti dipingono, io non lo conosco come uomo integerrimo, onesto e capace, ma perché l'attitudine italiana di affidare tutto nelle mani del Salvatore con la S maiuscola, il taumaturgo è un buon neologismo, taumaturgo, il taumaturgo che tutto risolve e tutto purifica, è una speranza un po' ingenua, francamente. Non funziona così, ci sono le norme. Ieri l'altro Nordio, quando ha fatto la conferenza stampa, ha detto una cosa saggissima, secondo me, e sulla quale bisognerebbe riflettere un po'. Ha detto, cosa ha detto Nordio? Nordio è il procuratore aggiunto di Venezia che guida gran parte delle inchieste sul MOSE. Ha detto, quando un paese ha troppe norme, quando un paese ha troppe porte da aprire perché le cose debbano essere fatte, ci vuole l'olio. Ci vuole l'olio. Ma questo effettivamente è troppe regole. Leggevo quanti sono oggi Libero scrive per avere un appalto 600 norme da rispettare, una cosa, esatto. 600 articoli da rispettare per fare un appalto, però questo ovviamente non è che giustifichi nulla, però è chiaro che porta ad aumentare i rischi della corruzione, no Rienzi, o no? Io leggo addirittura sul Corriere della Sera stamattina, perché lo ricevo davanti alla porta, che stanno cercando di fare una legge per dare la possibilità a Cantone di guardare gli appalti per vedere se sono regolari. Ma dico, ma stiamo scherzando? Esiste la 241 del 90, già noi lo possiamo ma fare. Ma esiste anche un'autorità per il controllo degli appalti pubblici con 350 dipendenti. Che ha tutto, poi che ha ricevuto tutto, non si capisce, quelli dormono come dormiva Sala, adesso un testimone di sicurezza ha detto che lo sapeva e non denunciava, cioè tutti sanno tutto. Vanno a fare adesso una legge per scoprire quello che già c'è nelle leggi, è una cosa folle. Ma che c'entra adesso Sala, cioè Sala dell'Expo? Perché adesso è la teoria craxiana. Ho letto sul Corriere della Sera che il testimone ha detto al giudice, io avevo denunciato a Sala queste cose, lui ha detto denunciale tu, perché se il giudice avesse voluto trovare qualche cosa l'avrebbero trovato. Ma che ragionamento, lui è il capo, doveva lui farlo, no? Vabbè, insomma, diciamo che sentiamolo. Ecco il DASPO, adesso arriverà il DASPO, Renzi dice il DASPO per la corruzione, non è che non andranno allo stadio, si misurerà uno strumento simile. Il punto centrale è garantire che chi viene condannato per questi reati poi non abbia la possibilità di ritornare magari 20 anni dopo a occuparsi della cosa pubblica. In questo senso la mia proposta di un DASPO ai politici o imprenditori che siano implicati in vicende corruttive è esattamente il senso di questa operazione. Il DASPO. Ci scrive l'ascoltatore Andrea, qui in Italia non si dice ho sbagliato, vado in carcere, ma sono sereno e ho fiducia nella magistratura. Poi vabbè, non è che abbiano già fatto il processo, però effettivamente questo basso numero di persone in carcere per reati come la corruzione in Italia fa un pochino riflettere, poi ognuno faccia la riflessione che vuole. Sono le società di capitali, cioè non è che gli imprenditori gli fai il DASPO e scompaiono, perché costituiscono una SRL e vanno avanti con la SRL, cioè forse Renzi non è tanto al corrente della situazione giuridica del nostro paese. Però io questo ho letto sul Corriere, almeno c'è una consolazione, in tutto questo almeno c'è una consolazione, viaggi e fuori serie e yacht, così spendevano i soldi, hanno fatto l'indagine patrimoniale e allora caro Maurizio, Galan e famiglia hanno dichiarato in 11 anni 1.400.000, ma ne hanno spesi 2.600.000, e anche qualcuno si è insospettito. Il generale Spaziante, ex della Guardia di Finanza, ha speso 3.800.000 con 2 milioni di euro di entrate, con tanto di auto sportive, ville con piscina, viaggi e spostamenti a Dubai in prima classe con trasporto da e per l'aeroporto in limousine. E io quando l'ho letto ho detto, oh, almeno se li è goduti, i nostri soldi, che bello, che bello, no, per dire, almeno se li è goduti tutti questi soldi, no? Va bene così Maurizio, no, è un modo per vedere il bicchiere mezzo pieno. Però sai, voglio dire, se tu pensi che il MOSE, come lo chiamano erroneamente, cioè insomma comunque le paratie mobili, avrebbe dovuto costare 1.800.000, e alla fine per ora fino ad oggi, che è all'80% costruito, 85 pare, ne è costati 5.400.000. Non funziona ancora, Sì. Finirà nel 1995, disse Bettino Craxi. Finirà nel 1995. Siamo 20 anni dopo e non è ancora finito. Forse nel 2016. Rienzi, ce la faremo nel 2016? Ci vuole ottimismo. Ma io dico l'acqua alta, non è che voglio difendere l'acqua alta, e lasciatela perdere. Viva l'acqua, ma lo dica. Almeno non buttiamo sti altri soldi per finirlo, questo coso. Vabbè, però adesso non risolverà niente. Rienzi, però è una questione di soddisfazione, ci abbiamo messo 40 anni. Vogliamo vederlo finito? Se mettiamo alle manovre tutti questi corrotti, vanno lì, devono come pena, devono andare a alzare le paratie. a mano con quei meccanismi. Tuffano e le tirano su. l'equivalente un po' più sadico del tuo zappettone. Sì, esatto, con la zappa. Il galletto ruspante Cocò razzolava felice perché in un campo che dirti non so, ogni spiga parlava da sé. Certi chicchi mai visti così, grossi e belli da fare impazzire. Ma lo vide questa bella faraona gallinella, che ad occhiato il bel cedrone, disse me lo faccio mune. Caro, aggiunse, co-co-co? Lui rispose, che vuoi mo? Vuoi salvarti dal veleno? Quello è grano saraceno, che al contrario del Viagra ti fa far figura magra. Bellissimo Almose, che figata! Fanno bene a rubare, ma devono rubare ancora di più, tanto hanno avuto l'appoggio degli italiani, giusto? Alle europee hanno votato i soliti partiti, giusto? Il PD, giusto? Che rubino, ma rubino di più, gli sta bene. Milan, visto l'ennesimo ultimo caso di un ex ministro di un passato governo del quale viene chiesto l'arresto, oltre alla rubrica La Carta Costa, perché non fai anche una rubrica Che ministro sbatto al gabbio? Dove chi indovina il nome del prossimo ministro o ex ministro del quale chiederanno l'arresto, vince un bel conto cifrato ad Aruba. Du du du du plin plin yam plan du du du du plin plin yam plan du du du du plin plin yam plan ad hoc odyssey 2001 maybe. Ciao Milan. Vabbè, ma siamo veramente ai valzer di Dudu. Allora siamo con Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Senti un po', Maurizio, ma che avete fatto? Che avete questionato con la Boldrini per quanto gli costa lo staff per fare i social network lì, Twitter, Facebook? Tutto è partito dalla verifica e dalla valutazione del fatto che appunto sui social network, da Twitter in là, moltissime erano le critiche. Allora siamo andati a vedere all'operato della Boldrini, come per carità spesso accade nei Twitter, spesso a tratti una fogna a cielo aperto, ma abbiamo valutato quanto fosse stato, quanto costasse la struttura, devo dire notevolmente affollata, del Presidente della Camera. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Sì, certo, solo che va risposto un po'. Sì, dicendo che ha tanti click. Ha tanti dipendenti che costano tanto. Certo che c'è questo clima. Avete sentito anche la segreteria, no? Rienzi, quello che dice il prossimo da arrestare. C'è un po' un clima, anche il clima stile Tangentopoli 20 anni fa, o no? Sì, ma probabilmente serve per dare in pasto a tutti quelli che non arrivano a fine mese qualche piccola soddisfazione, perché poi nella realtà non cambia assolutamente niente. Ci saremmo aspettati che negli ultimi anni non ci fossero tutte queste cose che stanno accadendo, no? Sì, ma poi anche che soddisfazione è, vede? Sì, certo, la soddisfazione che uno dice, ma non è che va la soddisfazione quando uno vede delle cose che vengono bloccate, perché poi andrà meglio. Ma voglio dire, beccare il farabutto di turno e prendersi la soddisfazione, tanto poi rimane le cose così, non lo so. Non è una verità. vera soddisfazione. Non è una grande soddisfazione. Aspettiamo da Renzi le vere soddisfazioni, vediamo cosa fa. Lui e Cantone, i quattro cantoni. Vabbè, io però vorrei sapere da Maurizio Tortorella, notoriamente uno dei migliori amici del Movimento 5 Stelle, che ne pensi del fatto che hai sentito anche l'ascoltatore dire: beh, certo, avete votato gli stessi partiti e boh, adesso vi beccate questo. Al vertice del PD adesso dicono no, Orsoni non è del PD, che c'entra, perché non è del PD, perché non è iscritto al PD. Greganti però era iscritto al PD, malgrado il progresso e questo. Sì. Indubbiamente sono tutte cose che portano acqua al mulino di Peppe Grillo e di Casaleggio. Allora guarda, ti faccio sentire un altro tuo grandissimo amico, Antonio Di Pietro, senti un po'. Leggendo quei nomi e ricordandomi anche le inchieste che insieme a Nordio io stesso feci, mi cadono le braccia. Il problema, a mio avviso, però, non è rivedere le stesse facce di allora. Voglio dire, quelli quel mestiere facevano, quello sanno fare. Quello sanno fare, hai capito? Non ho capito, ma lui che sta a fare? Via Drastici Riposi. Eccolo lì, lo sapevo Rienzi, lo sapevo che Rienzi al segnale di Pietro scatenate Rienzi. Mamma mia, guarda, non vi racconterò di Pietro. Tutte le volte ci dice così, le volte Maurizio ci dice un giorno vi racconterò quando di Pietro mi chiama. Chiamo al telefono dopo, così esatto, c'è il prossimo. La prossima inchiesta per Panorama la fornisce Carlo Rienzi. Vuol dire, è molto interessante, devo dire. Non ci può dare un'anticipazione? Come si può no, dare? Perché siccome è legata a certe cose personali sembra brutto. Non uso la radio per... Vabbè. Allora dopo vi telefonate, Tortorella. Devi fare una chiamata a Carlo Rienzi perché ha delle notizie su Di Pietro, però non ce le vuole anticipare. Così. Vabbè, Maurizio, però non ha tutti i torti Di Pietro quando dice vedo le stesse facce, le stesse persone, un qualcosa di déjà vu c'è, no? Su Di Pietro io vorrei trattenere il giudizio. Non ho chiesto su Di Pietro, sull'idea, su quello che ha espresso come concetto. Ma quando in maggio arrestarono contemporaneamente Greganti e Frigerio, lì fu veramente l'apoteosi del ritorno dell'arrestato e del condannato. Greganti, oltre alle condanne per violazione del finanziamento illecito dei partiti, ha avuto 10 condanne per motivi fiscali. Allora era sempre lì nel circuito del Partito Democratico, ancora prima PDS, ancora prima DS, ancora prima PC. Adesso no, ma non credo che Di Pietro difenda infatti anche un Greganti, che voglio dire. Lo metterà nel novero di quelle facce che ritornano. No, ma appunto, insomma, evidentemente nei partiti c'è qualche meccanismo da rivedere. Evidente, insomma, è qualcosa da rivedere, sì. Tra l'altro tu hai citato Primo Greganti, oggi lo leggerò poi in rassegna stampa. Luca Fazio e Enrico Lagattolla ne scrivono sul giornale: io utopista e picchiatello, così si definisce ai PM che lo interrogano, e ovviamente dice nego ogni addebito. Sempre così Primo Greganti, il compagno G, non molla mai. Sono le 7:18 minuti, è venerdì e si chiude la 57esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Cari italiani, in attesa della 58esima, siete pronti per il vostro lungo weekend? Allora vi ricordo che oggi torneremo sulle vicende di Venezia e dintorni per parlare un po' in generale di corruzione, di lotta alla corruzione, di Matteo Renzi che dice ora il DASPO, cioè quella misura contro i violenti nello sport, anche per i corrotti, e quindi eliminarli a vita dalla vita pubblica. E ancora alto tradimento, questo è il reato secondo il Premier per chi viola le regole ed è corrotto nella pubblica amministrazione. E di questo discuteremo, avremo anche Raffaele Cantone, l'uomo su cui tutti puntano le speranze, le attenzioni. Alle 8:45 sarà ai nostri microfoni. Vedremo che cosa può fare Raffaele Cantone, certo, anche se questa idea appunto di investire un uomo o una struttura come un aspetto salvifico è sempre un po' come dire, illusorio forse, è il sistema che deve reagire. Comunque lo scopriremo più avanti, avremo ospiti anche alle 8.15 l'assessore all'ambiente del Comune di Venezia, Gianfranco Bettin, e il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Riccardo Nencini. Ora andiamo a leggere i giornali. Venerdì 6 giugno, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sul piano Draghi contro la deflazione, scatta il piano Draghi antideflazione, questo è il titolo di apertura, così anche il Corriere della Sera si concentra su questo, la spinta di Draghi per la crescita, e anche il Messaggero, euro, la cura shock di Draghi. Questi titoli sulla decisione della Banca Centrale Europea. Poi ovviamente è un grande elenco anche ancora di articoli sulla vicenda corruzione. Repubblica, alto tradimento per i politici corrotti, la stretta di Renzi. Per il Fatto Quotidiano, Renzi grida al ladro ma sui corrotti ferma tutto. Perché è slitta appunto il decreto anticorruzione. La Stampa, Renzi fuori i ladri dalla politica. Il Giornale, il PD di Renzi nasconde le mani sporche di tangenti, mentre Libero, ecco le carte che affondano il PD. Il Quotidiano Nazionale mette un fotogramma con il titolo La mazzetta di Venezia, un filmato della finanza che mostra un imprenditore che paga la tangente a un intermediario, c'è proprio il filmato del passaggio della bustarella. Dai corrotti, alto tradimento, questo è il titolo dell'Unità. Mentre Avvenire si concentra sulla scossa di Draghi. Come vedete, le due grandi notizie che conquistano il titolo principale dei quotidiani sono queste due, Draghi e appunto la vicenda Mose. Iniziamo però come al solito la lettura di altri articoli che mi hanno colpito, a cominciare dalla vicenda Stamina, che torna ancora prepotentemente sui giornali. Sapete, la presunta cura inventata da Vannoni. Perché torna prepotentemente sui giornali? Perché ancora un giudice ha stabilito, un giudice di Pesaro in questo caso, ha nominato Marino Andolina, che è il vice di Stamina, il vice Vannoni, è medico, è indagato peraltro per questa vicenda. Marino Andolina è stato nominato commissario ad acta per la cura con il metodo Stamina all'ospedale civile di Brescia, per curare e fare le infusioni su Federico Mezzina, 3 anni e mezzo, un bambino affetto da un morbo di Krabbe, una malattia degenerativa molto molto grave. Andolina è stato investito appunto da questa ordinanza del giudice di Pesaro e si è presentato, come racconta il Corriere della Sera a pagina 18, alle 13 di ieri in ospedale, ottimista e deciso a fare l'infusione al piccolo Federico. Se non trovo medici disponibili, interverrò io. Ho fatto migliaia di lombari anche in capanne in Africa. Domani farò l'infusione, anche se dovrò farlo con un carabiniere alle spalle. La vicenda è questa, l'uomo di Stamina è indagato, nominato dal giudice, Brescia riprenda la cura. È accusato di truffa Marino Andolina, ma contemporaneamente appunto il giudice di Pesaro, per la vicenda di questo bambino di 3 anni gravemente malato, sul ricorso della mamma del bambino, che è un avvocato di Fano, Tiziana Massaro, ha appunto ottenuto la possibilità di essere nominato commissario ad acta, e l'ordinanza al giudice, del giudice all'ospedale di Brescia, è quella di riprendere le infusioni. Ovviamente questa notizia è su tutti i giornali, Stamina, nuova bufera sui giudici, anche la Stampa, che sulla vicenda Stamina ha fatto una lunga inchiesta, ne parla a pagina 19. Paolo Russo scrive: si è presentato con un'ora di anticipo ieri agli ospedali civili di Brescia nella sua nuova veste di commissario ad acta, il plurindagato vicepresidente di Stamina Marino Andolina. In un cortocircuito giudiziario che sembra non avere più fine, il Tribunale di Pesaro infatti ha individuato proprio nel medico accusato dalla Procura di Torino di associazione a delinquere e somministrazione di farmaci pericolosi la figura incaricata a ricercare medici disponibili a riprendere trattamenti sul piccolo Federico. Tra l'altro c'è un'intervista anche alla mamma di Federico, Tiziana Massaro, che dice: risolveremo il problema che si è posto dopo l'obiezione di coscienza dei medici di Brescia. Non posso dirle come, ma anticipo che il modo per andare avanti c'è. Io, come tanti altri genitori, chiedo solo che siano rispettate le leggi e gli ordini dei giudici che hanno deliberato per la prosecuzione dei trattamenti. E chiede la stampa, ma non la imbarazza il fatto che un plurindagato commissari un ospedale pubblico? Io sono un avvocato, ma credo che chiunque conosca la differenza tra indagato e condannato. Quanti condannati siedono in Parlamento e continuano ad amministrare la cosa pubblica? Chiede questa mamma. E comunque non mi interessa se Andolina è indagato, quell'inchiesta non ha nulla a che fare col caso del mio Federico, e poi sulle indagini condotte a Torino ci sarebbe molto da dire. E senta, il fatto che tanti scienziati abbiano definito stamina l'assoluto nulla non le ha fatto venire alcun dubbio? Quando ho visto in TV una coppia che aveva denunciato Raggiri, sono andata su YouTube. Il video della loro bambina smentiva categoricamente quel che dicevano. Poi mi sono rivolto a un ospedale pubblico, non privato. Sapevo che c'erano tutte le informazioni necessarie sui donatori, sulla correttezza dei carotaggi e della differenziazione cellulare. E allora perché la scienza è scettica e perché lei ha tanto scetticismo verso la scienza ufficiale? Perché prima siamo andati in Olanda per un trapianto di midollo e ci hanno detto che non c'era nulla da fare, poi ci siamo rivolti a Telethon dove ci hanno tolto ogni speranza, l'abbiamo riacquistata vedendo che nostro figlio migliorava dopo le infusioni di stamina. Così parla questa mamma del bimbo malato, Tiziana Massaro. Anche il Quotidiano Nazionale dedica una pagina a questo: un tribunale dà l'ok a stamina, scoppia il caso, interviene il Consiglio Superiore della Magistratura. Questa vicenda davvero, davvero continua e continua a tenere banco sui giornali. A proposito di corruzione, mi ha molto colpito questa notizia che ieri il Secolo XIX ha messo e oggi sulla quale il Secolo XIX ritorna e che proviene da Ventimiglia. Può essere, come dire, una storia di piccola provincia, e invece è una storia che racconta molto, come scrive Patrizia Mazzarello a pagina 7 del Secolo. Comprato con 50 euro tengo famiglia. È la storia di una coppia di Ventimiglia che ammette per 50 euro a testa di avere venduto il voto. Siamo disoccupati, con quei soldi abbiamo fatto la spesa alla Coop. Un politico vale l'altro, ci hanno offerto 50 euro per votare quello lì e abbiamo accettato. Vorrebbe essere Spavaldo, complice la gestualità esasperata, lo sguardo sprezzante. Il commento di Marco, ed è un nome di fantasia, uscito nelle scorse ore dal commissariato di polizia di Ventimiglia, pochi minuti dopo aver ammesso di aver accettato di vendere il suo voto e quello della sua sposa in cambio di appena 50 euro. Ecco, neanche 50 a testa, 25 a testa. Una piccola somma, davvero poca cosa per molti, ma dalla coppia già trasformata in una spesa alla Coop. Pane, verdura, prosciutto, merendine per i bimbi nel popoloso quartiere di Roverino. Marco e Anna, giovane coppia di origine meridionale, residenti da tempo a Ventimiglia, tante case popolari, sono diventati il simbolo della clamorosa inchiesta sul voto di scambio che sta scuotendo la città di Ventimiglia. Un'indagine che conta oltre 10 indagati, un politico formalmente indagato, Emilio Galardini, Forza Italia, 270 preferenze rosicchiate un po' in tutti i seggi della città di confine al primo turno delle elezioni due domeniche fa. Mi aveva davvero impressionato questa vicenda, non che sia la prima volta che ci siano inchieste di voto di scambio, ma 50 euro la spesa alla Coop e via, due voti venduti. Siamo qui allora alle 7:32 minuti, anzi 33 minuti, a continuare la lettura dei giornali. Renzi dice basta ladri, la corruzione deve essere considerata alto tradimento. I giornali però fanno notare che il decreto anticorruzione, che era previsto per alcuni per oggi nel Consiglio dei Ministri, è slittato. Il Fatto Quotidiano addirittura mette in prima pagina la notizia mettendo così: Renzi grida al ladro, ma sui corrotti ferma tutto. È il decreto che dovrebbe dare maggiori poteri anche a Raffaele Cantone, che sarà il nostro ospite alle 8:45, ricordo. Liana Milella su Repubblica, pagina 6 e 7, dice che la filosofia ieri di Renzi era questa: non faccio leggi spot contro la corruzione sull'onda dell'emergenza, ma una riforma organica e complessiva. Dunque un intervento stabile, niente emergenza, misure solide verificate nei minimi dettagli. Questo preme a Renzi, che ha detto ai suoi: non voglio inseguire i fatti, prendere iniziative sull'onda dell'emergenza, perché comportarsi così non è mai positivo. Anche se, aggiunge Renzi sempre in retroscena e quindi in colloqui, come dire, interpretati o raccontati dai giornali, mi sono reso conto che quando da noi si riesce ad assestare un colpo ai corrotti, immediatamente migliora l'immagine del nostro paese. Per questo Renzi punta molto sul DASPO, no? Quella misura che viene presa contro gli tifosi violenti per impedirgli di andare a vedere le partite di calcio, e punta che venga esteso in qualche modo anche alla politica. A proposito di cifre, si diceva prima, 50 euro per un voto a Ventimiglia, così ha detto una coppia di disoccupati, ben altre cifre quelle che la Guardia di Finanza ha scoperto nell'inchiesta del MOSE. Milioni di euro, milioni, scoperti anche nel modo più semplice, un'indagine patrimoniale. Viaggi e fuori serie, così spendevano il doppio delle entrate dichiarate. Andrea Pasqualetto ne scrive a pagina 8 del Corriere: ci han pensato le denunce dei redditi a confermare che qualcosa non quadrava a Venezia. Per esempio, la famiglia Galan dal 2000 al 2011 ha dichiarato entrate superiori a 1.400.000 euro di poco, ma hanno speso nello stesso periodo 2.600.000 euro. Stessa indagine patrimoniale per l'assessore regionale Renato Chisso: 1.100.000 euro dichiarati e nello stesso periodo spesi 1.400.000 euro. Oppure l'ex generale della Guardia di Finanza Emilio Spaziante, accusato di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio per aver ricevuto 2 milioni e mezzo di euro, 2 milioni di entrate dichiarate e nello stesso periodo 3 milioni e 800.000 euro spesi. Al che, insomma, la Guardia di Finanza qualcuno ovviamente ha fatto uno più uno, e scrivono: dai verbali magistrati emerge in questo caso inequivocabile l'elevatissimo tenore di vita. La scheda patrimoniale parla di auto sportive, barche di lusso, villa con piscina, prestigiosi immobili, costosissimi alberghi frequentati, soggiorni settimanali a Milano in hotel da 1000 euro a notte. La perla però per il generale Spaziante è il volo a Dubai, volo in business e trasferimento in limousine da e per l'aeroporto. Quando l'ho letto ho detto: vabbè, almeno se li è goduti. La difesa della famiglia Galan, in questo caso la signora Galan, Marco Imarisio, e come tutti i giornalisti, Marco Imarisio del Corriere ne parla a pagina 9, vanno attorno alla villa per cercare di strappare qualche dichiarazione. Lavori gratis, bugie, io pago due mutui, gli italiani sono ingrati. La moglie di Galan: se Giancarlo avesse avuto soldi non si sarebbe candidato, se avessi avuto i soldi che dicono perché avrei acceso due mutui? Mio marito è una gran persona, il miglior marito al mondo, è una persona per bene, venissero a vedere i nostri conti invece di infamarci in questo modo, e ancora noi ce la faremo. Dicevo, gli aspetti tragicomici ci sono sempre in queste inchieste. L'aspetto più incredibile, più tragicomico che ho scovato leggendo le intercettazioni pubblicate dai giornali è ciò che Repubblica scrive a pagina 12, addirittura La Stampa ci fa, giustamente a mio modo di vedere, il titolo a pagina 7. Sentite cosa dicevano a un certo punto le persone intercettate. Racconta Repubblica, con Giuseppe Caporale e Fabio Tonacci: si sentivano sicuri gli uomini di Giovanni Mazzacurati, il doge degli appalti in Laguna, al limite della sfacciataggine, talmente certi di farla franca che erano arrivati al punto di riscrivere le relazioni della Corte dei Conti al computer di casa, cancellando passaggi, sfumando critiche, aggiungendo postille, con il più banale dei copia e incolla. D'altronde nell'inchiesta è entrato anche un magistrato della Corte dei Conti, Vittorio Giuseppone. Ebbene, sfacciati, sentite, ecco il lato tragicomico. Mi raccomando, si dicevano tra loro, scrivi le cifre delle mazzette, evidentemente, su carta mangiabile, che se un giorno arriva qualche controllo, la carta mangiabile. È il titolo della stampa, pagina 7, i pizzini delle tangenti per il Mose, se arriva la finanza, mangiateli. Finisce sempre così, all'Expo quando hanno arrestato le persone... Cosa ha fatto uno? I post-it nelle mutande. Mario Chiesa dov'è che gettò al momento dell'arresto i soldi? Nel cesso, nel water. C'è sempre questo aspetto di fine un po' ingloriosa e tragicomica. Poi, per carità, ci saranno le inchieste, ma scrivete tutto sulla carta mangiabile. Io, insomma, già che dico che la carta costa, vabbè, ma è anche un premio, ma la carta mangiabile, cos'è fatta? Di pan di zucchero? Non lo so, la carta mangiabile. Comunque, il procuratore aggiunto Nordio di Venezia, intervistato da Lorenzo Sani per il Quotidiano Nazionale, dice la corruzione è peggio di 20 anni fa. Non c'è bisogno di nuove regole contro la corruzione, nemmeno di pene più severe, dice Nordio. La ricetta è questa. Intanto l'errore che non si deve assolutamente ripetere è chiedere alla magistratura di fare pulizia e cambiare i vizi della politica. In concreto bisognerebbe ridurre le leggi, semplificarle, renderle più chiare e trasparenti in modo che chi partecipa a una gara pubblica sappia a chi si deve rivolgere, quali sono le autorità responsabili, che devono essere poche. Perché se uno deve bussare a 100 porte è molto probabile, anzi è certo, che almeno una di queste rimanga chiusa fino a quando non arriva qualcuno che dice di ungerla con mazzette. Ecco, dice Nordio, laddove ci sono troppe porte a cui bussare va a finire che qualcuna di queste porte si apre solo se viene oliata con mazzette. E... mi colpisce a questo proposito ciò che Libero scrive a pagina 7. Fai un appalto, 600 articoli da rispettare. Ecco, anche attraverso la semplificazione forse si riduce. Per carità, Renzi dice che non è una questione di regole, se i ladri sono ladri, sono ladri. È anche certamente così, se uno è ladro, e se non lo è, non lo è. Forse però... scrive Libero, codici, regolamenti, certificazioni, la giungla di leggi per chi partecipa alle gare pubbliche, e secondo anche il procuratore Nordio, le tante porte a cui bussare, le innumerevoli porte a cui bussare, rischiano di portare a quella situazione in cui una di queste porte che è necessaria per andare avanti rimane chiusa finché non arriva l'olio giusto per sbloccarne i cardini, o no? Mauro Meazza, ti piace questa metafora? L'olio giusto per sbloccarne i cardini? E pensare, caro Alessandro, buongiorno, che l'olio per gli antichi si riservava ai vincitori nelle gare sportive. Ma vabbè. E qui nelle gare pubbliche. Sì, ridiamo un segno di biasimo, ma invece di encomio. Vabbè. Senti, mi immagino che tu abbia già notato che c'è stata una decisione abbastanza importante della Banca Centrale Europea. In realtà no, lo stavo per fare, ma lo faccio con te a questo punto. Ah, ebbene, è un piacere, perché noi abbiamo oggi diverse pagine dedicate a questo taglio dei tassi, e da cui si aspetta molto, tra l'altro anche in una di queste diverse... Eccolo lì, è caduta la linea. Vabbè, insomma, la notizia è questa, che la BCE... come racconta appunto il Sole 24 Ore, ha fatto una maxi offerta di liquidità per le imprese, questo è il titolo di pagina 3, con un pacchetto di 4 mosse, Mario Draghi, e la Banca Centrale ha risposto così al nuovo peggioramento dell'inflazione, della crescita dell'Eurozona, la paralisi del credito all'economia reale. Così almeno racconta Alessandro Merli. Dove sei andato? A ungere una porta? Sì, no. Dovevo chiudere una porta perché ho sentito questa cosa dell'olio e esatto. Volevo vedere se ne derivava qualcosa. No, comunque, anche per me. Io insomma stavo dicendo che Draghi ha fatto questa mossa. Cosa dovrebbe portare? Più soldi alle banche, quindi alle imprese, alle famiglie, in teoria, sì. Ma funzionerà così? Questo sai, il futuro è sulle ginocchia di Giove, per restare sui classici, però il prestito è targeted, e questa T che compare davanti alla sigla LTRO vuol dire che è mirato, cioè è indirizzato proprio alla condizione che le banche poi prestino alle imprese. Dovrebbe derivarne anche qualche beneficio per chi ha mutui, eccetera. Qui c'è anche una misura, diciamo, di contenimento per evitare bolle sull'immobiliare, quindi i prestiti non vengono erogati per fare mutui, non direttamente quantomeno, però è evidente che se la situazione banche migliora, poi dovrebbe migliorare anche la loro predisposizione a erogare dei mutui anche per le case. Insomma, speriamo che Mario Draghi e tutto il direttivo abbiano visto giusto, e quindi nei prossimi mesi, non sono mai misure che cominciano da domani, ma insomma nei prossimi mesi si veda qualche benefico effetto. Così come questa settimana si sta concludendo, si veda qualche benefico effetto per la Tasi, caro Alessandro, che continua a restare. Oggi segnaliamo questo problema dei due calendari, perché il Parlamento sta preparando un calendario, però alcuni comuni ne hanno fissato delle altre date, e adesso c'è un po' questo pasticcetto, si fa per dire pasticcetto, di cui scrive Gianni Trovati, in cui non si sa bene se dar retta al comune o allo Stato, uno di quei dilemmi tipo vuoi più bene al papà o alla mamma, e non sappiamo bene adesso, i migliori ingegni della giurisprudenza e del diritto si affaticheranno. Cioè tu non sai bene se vuoi più alla mamma o al papà? No. Ah, io di solito da piccolo cercavo di non rispondere a questa domanda. Mi mettevo forte imbarazzo. Proprio paraculo fin da piccolo, va bene. Certo, studiavo già da giornalista, infatti. vabbè. Comunque oggi è un giorno importante, parte la fattura elettronica, la prima fase della fattura elettronica per la pubblica amministrazione. Attenzione, perché se non fate le fatture elettroniche c'è tutto migliaia e migliaia di uffici, c'è tutto un gruppo di migliaia di uffici che non pagano più, quindi mi sembra abbastanza importante adeguarsi, anche appunto leggendo sul Sole 24 Ore di oggi le indicazioni che vengono fornite. E poi abbiamo anche il nuovo calendario per il 7:30, perché sai che c'è stato un differimento dei termini, lo trovate pure questo sul Sole 24 Ore, e va bene. Naturalmente. E tra l'altro, no. Mauro, c'è Ettore che ci manda un SMS proprio in presa diretta con una domanda importante: ma a Meazza, finiti questa parte, poi torna a letto? No, purtroppo. Vabbè, no, abbiamo svelato, è una cosa fondamentale, insomma, per l'economia italiana e per il PIL e per la ripresa. Ma posso ringraziare anche Ettore per l'interessamento, mi fa piacere ci sia questa curiosità da parte degli ascoltatori, devo dire, nei confronti della mia persona. Intanto alle 7:47 minuti racconta il giornale in una pagina di Luca Fazzo ed Enrico Lagattolla i verbali del compagno G, primo Greganti, arrestato per la vicenda dell'Expo, io utopista e picchiatello, così Greganti dribbla i PM, scrive il giornale. Il compagno G sfiora il ridicolo, scrive il quotidiano, negli interrogatori per negare il suo coinvolgimento. Nessuno crede che io faccia un'attività utile alla gente. Sono un utopista, così si definisce Primo Greganti, che all'atto di dare le generalità dice: ogni tanto qualcuno mi chiama anche compagno G. Nego tutti gli addebiti. Io vivo con la pensione di 1.600 euro al mese, di cui 5.50 li do a mia figlia che non frequento. Quindi non vivo sopra le righe. Sono un utopista che vive nel mondo che probabilmente non c'è più. Il mio progetto era quello di fare la filiera del legno e creare un'università in 7-8 paesi. Io non ho mai dato soldi a nessuno, non ho preso soldi da nessuno, non vivo sopra le righe, non ho chiesto a nessuno di fare cose fuori legge. Ho incontrato molte volte Paris, il capo degli appalti di Expo, ma non ho mai chiesto di darmi notizie riservate. Ho incontrato Paris perché lì si fanno 43 padiglioni in legno, c'è un'ingegneria evoluta lì a Milano che a me interessa conoscere. Forse ho fatto qualche leggerezza, ma leggere, dice ancora Primo Greganti, che c'era una cupola in cui a capo della quale c'era Greganti mi fa impazzire. Siamo matti, c'era Greganti, ma si immagini, dice al magistrato. Certo, io avrei potuto davanti a cose denunciare, fare, brigare, non lo so, può darsi che abbia compiuto qualche leggerezza, ma non ho mai millantato di aver incontrato il commissario di Expo Sala, che non conosco, non ho mai incontrato Bersani, non ho mai avuto un dialogo in vita mia con Bersani. Insomma, così Primo Greganti nega ogni addebito, così racconta il giornale nei verbali che vengono pubblicati dell'interrogatorio. Altra inchiesta è la vicenda Matacena. Ragazzi, è tutta una situazione di inchieste giudiziarie, sembra veramente di essere alle pagine dei giornali all'epoca di Tangentopoli. Comunque, il Fatto Quotidiano a pagina 8, Lady Champagne, così ormai definita, fuga in Libano, l'idea era di Scajola. Secondo il Fatto Quotidiano, Enrico Fierro e Lucio Musolino ne scrivono a pagina 8, Lady Matacena, alias Chiara Rizzo, ha scaricato Sciaboletta, così viene soprannominato Scajola, ammettendo la Porsche me l'ha regalata, bella vista Caltagirone, e l'idea di trasferire mio marito Amedeo Matacena, condannato per l'associazione esterna alla mafia, ricordiamo, ed è a Dubai, in Libano, era un'idea di Scajola. Questo Chiara Rizzo, secondo il Fatto Quotidiano. Vabbè, abbandoniamo la vicenda giudiziaria, veniamo alle notizie di cronaca. Mi ha colpito molto un'inchiesta che ha portato all'arresto di un professore delle medie, l'accusa è pedofilia, e mi ha colpito non tanto e non solo l'inchiesta per un reato già orribile se ipotizzato, ma perché, come racconta il giornale, in particolare Repubblica, pagina 25, il titolo è questo: così a scuola hanno coperto il prof pedofilo. Molestie in classe alle 13enni, ma ci sono altri 4 indagati, tra cui la direttrice, perché secondo le accuse da anni sapevano. Il professore di arte le toccava quando si avvicinavano alla cattedra con i disegni in mano, quando scrivevano alla lavagna o ritiravano i compiti in classe. Secondo le accuse era la mano del professor Minora, 61 anni, a passare sulle gambe o sul seno appena i compagni non guardavano, non potevano vedere. 5 minorenni, tutte nel 2014, le vittime di violenze sessuali accertate dal nucleo tutela donne minori della polizia locale di Milano. Ma la vicenda inquietante è questa: a scuola sapevano almeno in 4 persone, tutte indagate, avevano coperto e minimizzato gli episodi anche con le alunne. Sono la direttrice di 52 anni, indagata per aver dato false informazioni agli inquirenti, il preside che l'aveva preceduta di 61 anni per avere taciuto e reso dichiarazioni false, un professore di fotografia informatica di 57 anni, una professoressa di storia dell'arte di 61 anni. Nelle intercettazioni dicevano tra di loro: si sa benissimo che Minora è pedofilo, senza mai denunciare nulla. Beh, insomma, mi ha molto sconvolto, devo ammetterlo. Poi ovviamente vedremo, come al solito, l'inchiesta, certo, questo va detto sempre. Allora, per la cronaca anche, non negate che siete stati colpiti, io ho visto solo qualcosa che circola su YouTube, da Suor Cristina, che ha vinto The Voice e recita il Padre Nostro sul palco, oggi a pagina 47 del Corriere, ma tutti i giornali alla pagina degli spettacoli ovviamente si concentrano sulla vincitrice, Suor Cristina Scuccia, 25 anni, che pare ora possa fare, cioè, se abbiamo sentito la nostra Marta Cagnola, un tour mondiale. Era abbastanza scontato che vincesse Suor Cristina Superstar, vincitrice di The Voice. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi viene assegnato a Libero. Libero che si concentra con un'intera pagina, con tanto di inizio in prima pagina, sulle parole. Le parole che stanno stravolgendo la lingua italiana, a cominciare dal cibo. Il titolo è: tra kebab e spritz l'italiano si fa colonizzare. Scrive Gianluca Veneziani: scusi, mi porterebbe un kebab e un falafel al tavolo, magari in un posto Teranga. Ma che è Teranga? Teranga, ma il kebab lo so, il falafel lo so, Teranga. Ma dai, ma insomma, una pagina di Libero su questo. 24 mattino. Alle 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan a leggere i verbali di queste vicende di presunte corruzioni, mazzette, l'ultima quella di Venezia legata al MOSE. C'è sempre anche un lato tragicomico, è quello che iniziò col filone di Mario Chiesa che per liberarsi delle mazzette buttava i soldi nel water al momento dell'arresto. O per venire ai giorni più recenti, pensate alla vicenda Expo, uno degli arrestati che nascondeva i post-it nelle mutande durante l'arresto della Guardia di Finanza. Ecco, l'aspetto tragicomico che si scorre nelle 712 pagine dell'ordinanza della Procura di Venezia c'è quando alcune persone intercettate dicevano: mi raccomando, metti tutte le cifre su carta mangiabile, che se poi arriva qualche controllo, eccola qui, la stampa. I pizzini delle tangenti per il MOSE, se arriva la finanza, mangiateli. Dicevano anche questo. Va bene, comunque Renzi dice: chi corrompe si macchia di alto tradimento. Io personalmente un politico che viene indagato per corruzione lo indagherei per alto tradimento, se dovesse dipendere da me. Perché uno che prende delle tangenti tradisce il mandato, l'onore sul quale aveva giurato. Insomma, alto tradimento, dice anche Renzi. Ora, il DASPO, cioè quella misura che si usa per i tifosi violenti per impedirgli di andare alle partite di calcio, anche per la pubblica amministrazione, per chi corrompe. È davvero questa la strada? Intanto lo voglio chiedere al vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Rincini, che saluto, buongiorno vice ministro. Eccoci. È davvero questa la soluzione? Dice Renzi: non è un problema di regole ma di troppi ladri, è così? Sono d'accordo al 90% con il presidente Renzi. È un problema di regole da una parte, come è successo ad esempio per Expo a Milano. Lì, attraverso il meccanismo delle deroghe, si è infilato il meccanismo della corruzione. Caso diverso invece a Venezia, dove non ci sono state deroghe al codice degli appalti, e però c'è stato un tavolo attorno al quale si sono seduti tutti i soggetti, e anche uno in più addirittura: imprenditori, magistrati, controllori, controllati, politici, eccetera eccetera. Quindi è un problema di regole, ma soprattutto è un problema di etica pubblica. Quello è il problema che sta alla testa di tutti. Senta, non c'è opera pubblica che non comporti mazzette. Sa che l'italiano medio la pensa così, e magari non va neanche tanto lontano dallo sbagliarsi. Lei concorda? I dati della Guardia di Finanza del primo trimestre 2014 sono simili a questo sentito dire. Ritengono che in 1 miliardo di appalti, circa 800 milioni di appalti circa censiti nel primo trimestre di questo anno, ritiene la Guardia di Finanza che il 68% sia irregolare. Dentro l'irregolarità potrebbe esserci anche un livello di corruzione oppure di concussione. Ma dobbiamo essere rassegnati a questo. Il proverbio popolare qualche fondamento potrebbe avere. Ma voglio dire, dobbiamo rassegnarci a questo. Cioè, che cosa può cambiare davvero? Perché le regole, le leggi, ce ne sono anche a iosa in Italia. Ce ne sono troppe leggi. Appunto. E quando ci sono troppe leggi, nelle troppe leggi alligna anche la possibilità di... Insomma, fatta la legge, fatto l'inganno, si diceva un tempo. Non è sbagliato. Lei comunque dice: il MOSE, per esempio, vi siamo credo all'85% di realizzazione, va fatto, va ultimato, non c'è alcun dubbio che è l'ennesima dimostrazione. Ma lei pensa che debba essere lasciata un'opera con il 15% dei lavori da concludere? Quindi avremo la beffa, oltre ad aver speso anche circa 5 miliardi di euro dei cittadini italiani. L'opera, le dighe vanno fatte, il progetto era ritenuto uno dei migliori al mondo, è un progetto che viene osservato, visto, non so ancora se è copiato da stati e governi di mezzo mondo, Stati Uniti in testa. Altra cosa è la tipologia dei lavori e il come si sono condotti. Se dietro al lavoro c'è, come appare, una forma forte di corruzione, lì bisogna intervenire. Altra cosa è la conclusione dell'opera. Su questo certamente. Intanto mi lasci salutare a questo proposito l'assessore all'ambiente del Comune di Venezia, Gianfranco Bettin. Buongiorno assessore. Buongiorno. Le chiedo questo: il comune, cioè, intanto il clima, io, mi pare che c'è anche a Venezia, mi pare che lei abbia fatto una dichiarazione strappata anche dal Corriere della Sera il giorno scorso, a dire: il sindaco certo ha fatto una cretinata se ha fatto quello che dicono ovviamente i magistrati. Che clima c'è a Venezia anche all'interno dell'amministrazione comunale? C'è una sensazione di crisi, oppure il comune come comune non c'entra, e c'entra eventualmente il sindaco come persona? La magistratura cito che il comune come comune non c'entra nulla, e anche il sindaco non c'entra in quanto sindaco, ma c'entrerebbe perché avrebbe ricevuto un contributo irregolare quando era ancora candidato sindaco. Per tutto il resto è dimostrato dalla stessa magistratura che il comune in questa vicenda non c'entra nulla, mentre altri organi dello Stato purtroppo ci sono dentro fino al collo, dalla regione, dal magistrato alle acque che doveva controllare tutta questa partita, ad alti funzionari di altri organi, eccetera. L'amministrazione comunale esce palesemente del tutto estranea da questa vicenda. Sì. Le chiedo anche questo, sa che c'è una polemica politica perché il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Lotti ha detto Orsoni non è del Partito Democratico. Dal punto di vista formale è vero, cioè non è iscritto nel Partito Democratico. Sì, però, appunto, ma non c'entra niente, era il candidato della coalizione, fine, ed è il sindaco tuttora, anche se in questo momento sospeso, di una coalizione che non è neanche di centrosinistra, bensì più larga ancora, perché c'è anche l'UDC, anche a Forze Civiche, eccetera, quindi è una dichiarazione che non ha alcun senso in questo momento, se vuole essere una presa di distanza. La distanza la si può, anzi la si deve prendere dai comportamenti eventualmente dimostrati scorretti o addirittura illegali, e questo è un discorso che ci sta, questo è giusto, altro che, anzi è doveroso. No, ma questo certamente. Tra l'altro io ricordo che alle 8.45 avremo ospite anche Raffaele Cantone, il presidente dell'anticorruzione. A questo proposito, vice ministro Nencini, si è parlato di questo DASPO, cioè tecnicamente lei come lo vedrebbe il DASPO, cioè una condanna definitiva per corruzione vuol dire che uno non fa più politica, per esempio? Beh, bisogna cambiare un paio di codici probabilmente. La legge, non so se sia sufficiente la legge Severino, ma temo di no. Potrebbe essere applicato, sì, potrebbe essere applicato riscrivendo la norma. E riscrivendo la norma, perché a proposito di questa norma, la norma anticorruzione non arriva? Oggi qualche giornale dice, ma come, Renzi tuona contro i ladri, però slitta questa norma anticorruzione. C'è un consiglio dei ministri convocato per oggi, quindi forse è la volta buona. Aspettiamo quindi qualche sorpresa dal consiglio dei ministri di oggi addirittura, secondo lei? Ci sta dando una notizia? Io non lo escludo, so che a Palazzo Chigi stanno lavorando alla Clemente da diversi giorni per scrivere il decreto che riguarda il magistrato Cantore. Certo, e potrebbe arrivare addirittura oggi nel Consiglio dei Ministri, questo lei ci sta dicendo, insomma, perché oggi i rumors dicono che slitti invece... Non so... Ripeto, so che stanno lavorando da diversi giorni per creare una norma da incardinare in una situazione particolare, perché sia per Expo Milano sia per Mose siamo in conclusione dei lavori, e per Milano addirittura siamo di fronte a una situazione eccezionale, straordinaria. I lavori andrebbero consegnati il 15 aprile del prossimo anno, perché poi inizia Expo. È certo. Quindi i poteri da assegnare a Cantone devono stare all'interno anche di una logica, di un cronoprogramma che io vorrei venisse rispettato, diversamente è l'Italia che scende a precipizio. Certo. Una persona. No, io nel ringraziarla le faccio anche questa domanda. Lei è da sempre un socialista, ha iniziato la carriera politica proprio, se non sbaglio, a cavallo del periodo di Tangentopoli, era consigliere comunale nel 90. Nel 90, quindi voglio dire, il periodo è quello. Si fa sempre la classica domanda: era peggio, è meglio, è peggio di allora, è peggio di 20 anni fa, è cambiata? So che paragoni non sono facili. No, non si può fare invece storicamente un paragone, ed è giusto farlo, perché la storia si fa con i se e con i ma, siccome la fanno gli uomini, non la fa la provvidenza. C'è una differenza in peggio, quindi il confronto è negativo, perché allora la fuoriuscita da Tangentopoli significava per la grande maggioranza degli italiani nutrire una speranza di un cambiamento molto forte. Se io vedo invece la conclusione di questo ventennio, alla fine vedo che ci troviamo in un'Italia divisa da quattro crisi, le fratture nord e sud sono aumentate, sul piano della corruzione siamo tra i paesi nella testa mondiale, e quindi il confronto si può fare ed è decisamente negativo. È negativo. Io intanto la ringrazio, Riccardo Nencini, voglio ricordare il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Do un attimo di pubblicità e poi rimane con noi, però, e vorrei approfondire con Gianfranco Bettin alcuni aspetti, è l'assessore all'ambiente del Comune di Venezia, alcuni aspetti dell'inchiesta, ripeto, com'è il clima lì? Vorrei capirlo sia da politico ma anche da persona, da sociologo, posso dire, da persona che veneziana, che conosce bene quella realtà, perché oggi si leggono spaccati dai giornali impressionanti, come per esempio il fatto che alcuni degli indagati, degli arrestati, avessero falsificato la relazione della Corte dei Conti, tanto c'era anche un magistrato della Corte dei Conti che secondo la procura era controllato da loro, oppure il fatto che molte delle persone arrestate vivessero con il lusso come unico scopo, spese incredibili al di sopra di quello che dichiaravano nella dichiarazione dei redditi, a cominciare dall'ex presidente della regione Galan, ma anche dall'ex generale della Guardia di Finanza Spaziante arrestato, così come dall'ex assessore regionale del Veneto. Siamo qui allora a parlare di quello che è stato il terremoto presunte tangenti a Venezia. Con noi c'è Gianfranco Bettin, assessore all'ambiente del Comune. Intanto Bettina, lei che si è fatto leggendo, immagino come tutti i giornali, questo spaccato così vasto che coinvolge ambienti a 360 gradi di presunta corruzione? Ma veramente l'idea io non me la sono fatta leggendo i giornali, perché sono svariati anni che io e altri come me denunciamo esattamente questo sistema. Al di là delle persone, la sua struttura, le modalità. Prima si parlava di regole, qui sono proprio le regole esistenti all'epoca della Costituzione del Consorzio Venezia Nuova e della decisione di realizzare il MOSE che hanno consentito questo tipo di situazione, di svilupparsi questa specie di cancro che oggi la magistratura sbatte sotto gli occhi di tutti, ma che da tempo era denunciato. Però, perché noi abbiamo affidato la più grande opera pubblica italiana senza gara, senza concorrenza, senza sottoporla a valutazione di impatto ambientale positiva, perché la sola volta che è stata sottoposta a valutazione di impatto ambientale ha avuto un referto negativo. Con la legge obiettivo successivamente, in cui è stata inserita la realizzazione del MOSE, si sono ulteriormente semplificate le procedure, quindi con meno controlli. Sì. È in questo quadro che si sviluppa tutto quello che viene fuori. Però, vede, meno controlli, il procuratore aggiunto Nordio dice i troppi controlli, le troppe porte a cui andare a bussare, comporta poi il fatto che magari alcune di queste porte, siccome sono tutte porte decisive poi per far andare avanti le questioni, alcuna di queste porte rimane chiusa finché uno non deve ricorrere all'olio, cioè all'olio, cioè alla mazzetta. Questo è vero in generale, ma non è vero per il MOSE, perché il MOSE è stato realizzato è chiaro, in deroga, in deroga. Di controlli, quindi certo. Si tratta di contemperare le due cose, no? Di non esagerare nella rischiosità, nella burocrazia, eccetera, ma neanche di smantellare ogni sistema di controllo. No, è chiaro, né troppi controlli né affidare tutto in deroga a qualcuno che, voglio dire, diventa un po' il dominus della situazione e fa il bello e il cattivo tempo. Come è avvenuto nel caso del MOSE, che è esattamente questo, a parte il fatto che poi i controllori che comunque ci sarebbero dovuti essere erano, come risulta dalla magistratura, appunto, al libero paga. Appunto, è questo, è quello che io le volevo chiedere, ma se la situazione è tale per cui, come scrive oggi Repubblica, c'era addirittura gli uomini del MOSE che falsificavano la relazione della Corte dei Conti, cioè la Corte dei Conti, i controllori fanno una relazione... Ma c'è perfino qualcosa di peggio, c'è la falsificazione di questo, ma ci sono gli atti, per esempio, del magistrato alle acque in certe fasi o di altri organi dello Stato materialmente scritti dagli uomini del Consorzio Venezia Nuova, cioè io che devo fare l'opera e che devo essere sottoposto al controllo di un ente, scrivo gli atti che poi quell'ente compie, approva, cioè è una cosa, per questo è giusto dire che è peggio di Tangentopoli questa storia. È peggio di Tangentopoli. Sì, Tangentopoli era un circuito perverso di corruzione e concussione tra politica e affari, no? Qui ci sono pezzi dello Stato, organi dello Stato che sono stati asserviti all'affarismo. È una cosa ben peggiore. Ben peggiore, dice lei. Dai controlli fiscali si è anche raccolto molte delle informazioni. Per esempio, racconta oggi il Corriere della Sera, pagina 8, la famiglia Galan ha denunciato dal 2000 al 2011 €1.400.000, ma le spese erano di €2.600.000 nello stesso periodo. Renato Chisso, assessore regionale, ha denunciato €1.100.000, ma le ha spese €1.400.000. Il generale Spaziante, entrate 2 milioni, uscite 3 milioni e no. e 8 nello stesso periodo. Vabbè, insomma, potrebbero aver risparmiato tanti soldi nel frattempo. Ecco, certo. No, aver dato fondo a risparmi, no? Sono i risvolti, come dire, individuali, no? Che vanno, sì, accertati, e è anche giusto fare indagini fiscali mirate che portino alla luce eventuali paradossi che si spiegano magari solo con cose indicibili, diciamo così, che vanno dette, ma dopo attenta analisi della magistratura. Il problema però è di sistema, è questo che rischia di riprodurre le cose. Anche adesso, quando si dice il problema non sono le regole, il problema sono i ladri, è vero in astratto, ma nel contesto italiano e in particolare nel contesto che ha portato alla vicenda Mose, sono in discussione, devono essere in discussione anche le regole. Sì. Perché anche altrimenti cambiamo le mele marce che vengono identificate e mettiamo qualcun altro. No, ma è chiaro, ma le regole a tutto tondo, come non è il caso del Moso, che abbiamo detto erano lavori in deroga, ma scrive oggi Libero, fai un appalto, ci sono 600 articoli da rispettare. Anche questo forse è un problema di troppe regole. Fatemi sentire però insieme all'assessore all'ambiente Bettin qualche ascoltatore. Andrea da Cremona, buongiorno Andrea. Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda, ascoltavo adesso la parte delle regole, mi domanda e la parte dei controlli, ma io perché abbiamo dovuto aspettare così tanti anni perché qualcuno si accorgesse di questi scandali, tipo Mose, Expo, e ci sono decine di organi di controllo e nessuno ha portato in evidenza questo problema? Questa è la prima domanda. La seconda è perché al di là di tutte le regole non mettiamo una regola che dice chi ruba restituisce con gli interessi alla comunità che viene poi suddivisa tra tutti noi che siamo stati lesi. Sì, visto che secondo le dichiarazioni dei magistrati di Venezia hanno sottratto con una creazione di fondi neri all'erario, quindi alle tasse, cioè fondi che questa azienda si faceva restituire per false prestazioni, per dirlo in maniera brutale, e con questo si creava il fondo per cui dare poi la tangente da distribuire a tutti. Quindi sono soldi sottratti alla comunità, Andrea. Guardi, la questione dei controlli ci sono, c'è un'autorità per esempio che fa i controlli, la domanda me la tengo perché tra 5 minuti avremo Raffaele Cantone, presidente dell'anticorruzione, per cercare di capire se davvero i controlli non ci sono già. Però Bettin, lei vuol già dare una risposta all'ascoltatore? Sì. Almeno sul primo punto, sì. Non è vero, sono state fatte molte denunce da parte di vari soggetti, io stesso, ma altri comitati, movimenti, associazioni, di ambientalisti soprattutto, che contestavano l'opera anche concettualmente, diciamo, perché è reputata inadatta a risolvere il problema che doveva affrontare, cioè quello delle alte maree a Venezia, no? E anche per l'impatto ambientale che ha essa stessa. Quindi contestando nel merito l'opera ne contestavamo anche le procedure, ma queste denunce sono rimaste a lungo inascoltate. A proposito, quando la magistratura è intervenuta un po' tardi, ma fortunatamente, ma meno intervenuta. A proposito di contestazione, ma lei è contro il MOSE, cioè secondo lei andrebbe bloccato? No, ormai è impossibile bloccarlo, siamo a 4/5 del, certo, lavoro. Piuttosto la parte che manca dovrebbe essere utilizzata per capire che cosa va aggiustato nel sistema proprio dell'opera, per capire, per metterla meglio in grado, diciamo, di affrontare. Lei era contrario prima, ma ormai sarebbe... Siamo a 4, quindi smantellarla è peggio. Impossibile, bisogna cambiare il modo di gestirla e eventualmente adattarne alcune caratteristiche, ma questo è un altro discorso. Sì, certo, no? Fatemi sentire Vincenzo da Milano. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, dica. Senta, io sentivo l'ascoltatore precedente, ha detto che dovrebbero restituire i soldini, sì, sarebbe giusto, ma dove li andiamo a prendere i soldini di questi qua? Questi qui li hanno imboscati da qualche parte e non li ritrova più. Sembra che siano colpevoli. Avrei una soluzione migliore, togliergli completamente le pensioni vitalizie e tutte quelle robe lì, chi si macchia di alto tradimento nei confronti delle istituzioni, come ha detto il Presidente del Consiglio, non ha più diritto a ricevere il becco di un quattrino, tanto ne ha già rubati milioni, si può mantenere con quelli. Metterli in galera non conviene, perché li dobbiamo pure mantenere in galera. Ma guardi, quei soldi, ma io dico una cosa, Vincenzo, va bene, questa è la sua ricetta, ma non è banalmente semplice quello che fanno, non so, il caso di Uli Hoeneß è diventato celebre in Germania, cioè senza vendette, senza togliere le pensioni, senza fare, se uno viene beccato a fare a corrompere e viene condannato in terzo grado, quindi condanna definitiva, sconta la sua pena. Una volta che ha scontato la sua pena, rientra nella società. No, Bettin, non dovrebbe essere normale, sì, così lineare e normale, non DASPO, cose a vita, ma no, con becca... eventualmente sequestrando beni accumulati. Ma certo, ma certo, comunità, ma certo, no? Ma una cosa normale, noi in Italia non la sappiamo fare, normale, senza dire o non c'è nessuno in carcere per corruzione, oppure la ghigliottina, va bene. La ghigliottina, quella l'ha detta Giarrusso del Movimento 5 Stelle alla Zanzara, no? Lì si scherza anche sì, un po'. No, si scherza, ma è un modo per alzare talmente la palla che non la si vede più. No, no, no, è chiaro, è chiaro. Cioè, una cosa lineare: uno viene preso, viene, se è corrotto o se ha corrotto, viene condannato, sconta la sua pena e poi dopo rientra nella società in maniera normale. Alle 8:47 minuti il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone ai nostri microfoni. Buongiorno presidente, ben ritrovato. Buongiorno a lei. Senta, so che la decisione è politica, non spetta a lei, ma poco fa alle 8:15 il vice ministro Nencini ci ha detto che oggi c'è un consiglio dei ministri in corso e forse è la volta buona, no? Perché i giornali raccontano che slitta questo decreto anticorruzione. Lei saprà qualcosa, l'avranno informata se oggi succede qualcosa, no? Guardi, io non ho notizie dirette, ma so che molto probabilmente oggi non si dovrebbe decidere, così diciamo mi è stato detto, però non ho notizie dirette, non sono a Roma e quindi non posso dire niente di sicuro. Vedremo la giornata. Senta, Gian Antonio Stella scriveva ieri che nelle carceri italiane ci sono 156 detenuti per reati contro il patrimonio economico e finanziario, diciamo anche per la corruzione, lo 0,4% dei carcerati, vuol dire che siamo un popolo sano, non di corruttori e corrotti. Guardi, voglio dirle di più, io credo che le statistiche di Stella, che diciamo è una persona che su questo punto ha sempre scritto cose per fortuna in tempi diciamo anticiclici bellissime, siano persino esagerate in più. Io non ci credo che ci sono 156 detenuti per reati economici, io credo che siano ancora molto meno per la verità. Perché diciamo in questa materia, fra prescrizioni, sospensioni condizionali della pena, affidamenti in prova post condanna, diciamo in carcere non ci va praticamente nessuno. Io credo che diciamo quelle statistiche prevedano qualche detenuto per bancarotta, ma sì, io faccio fatica a credere che in questo momento ci siano più di due detenuti per corruzione in Italia. Più di due? Sto parlando. Senta, ma il problema sono... Due è persino un numero esagerato. Ah, forse due è anche troppo. Il problema sono le troppe regole o i ladri, come dice Renzi? Sicuramente il primo problema sono i ladri, perché è chiaro che noi possiamo fare tutte le regole di questo mondo, ma finché ci saranno i ladri sarà molto più difficile fare le regole, anche perché, parliamoci chiaro, le regole diciamo possono svolgere un ruolo fino a un certo punto diciamo salvifico, anzi io non credo affatto che le regole svolgano un ruolo salvifico, quindi c'è sicuramente un problema di ladri. Ovviamente poi le regole devono evitare che i ladri la facciano franca e soprattutto devono evitare che i ladri abbiano facilità nel loro compito, cioè io credo che il compito dello Stato non è quello di impedire la corruzione, è impossibile, come dice impediamo i furti, è impossibile, non c'è nella storia dell'umanità un momento in cui non ci sono stati furti, per esempio, il primo si è verificato nel paradiso terrestre, eppure lì c'era un controllore di eccezione, abbastanza, e nemmeno è stato possibile evitarlo. Il tema è quello di rendere meno semplice l'attività di questi delinquenti, e allora in questo le regole possono svolgere un ruolo, quindi nessuna funzione salvifica, non ci sono regole capaci di risolvere il problema, è un problema di ladri, però le regole buone possono rendere più complicato il lavoro ai ladri. Questo certamente. Senta, le giro in qualche modo la domanda che l'ascoltatore prima di Cremona ci faceva, cioè che, a che serve, voglio dire, c'è già un'autorità per la vigilanza sui controlli sui contratti pubblici, per esempio, con oltre 350 dipendenti, cioè ci sono gli strumenti per controllare, perché vengono fuori tutte queste vicende? Ma perché diciamo prima di tutto gli strumenti di controllo non sono sempre fra loro particolarmente coordinati, non sono sempre particolarmente efficienti e non sono quasi mai in rete, però diciamo attenzione a fare poi in questo momento anche un po' di tutta l'erba un fascio, quando si stabilisce una serie di regole, io per esempio parlo per quello che conosco, no? Non mi permetto di parlare di lavoro degli altri, diciamo, sono valutazioni politiche, sono valutazioni altre. Per esempio, quando si stabilisce un reticolo di regole, come è avvenuto nella legge anticorruzione, poi bisogna che ci sia qualcuno che provi a farle rispettare, cioè se per esempio si stabilisce che ci sono delle norme che potrebbero essere utili secondo gli standard internazionali a far evitare che si verifichi la corruzione, poi ci deve essere qualcuno che prova a farle rispettare, perché se noi facciamo le grida manzoniane non servono a nulla, il nostro ordinamento è pieno di grida manzoniane. Allora per esempio l'autorità in cui io sono stato nominato, piccolissima, che ha 26 dipendenti, tutti bravissimi, diciamo, ma un gruppo di lavoro che fa fatica a guardare quantomeno gli esposti che ogni giorno gli arrivano, e gli dico di più, nell'ultimo mese sono quintuplicati gli esposti che arrivano, sì. Dicevo, deve a questo compito, cioè che le norme in materia di anticorruzione previste dalla legge 190 vengano fatte rispettare. Noi ci stiamo provando con risultati che, per quanto mi riguardi, io sono da meno di un mese, sono interessanti, cioè stiamo provando a imporre le regole sulla trasparenza, a far sì che la maggior parte delle amministrazioni si doti del piano anticorruzione. Se lei mi chiede, questo impedirà la corruzione? No. Dico, io sono così stupido da dire sì. La contrasterà, si cercherà di contrastare. E sono quintuplicati gli esposti, cioè che scrivono a voi e segnalandovi che cosa? Ma dai, le cose più incredibili. Alcune interessanti, altre meno. Ma per esempio io ho notato che c'è una competenza civica in materia, per esempio, di trasparenza, che è molto maggiore della mia. Arrivano esposti in cui dicono il comune tizio non ha messo in rete questi dati. E noi ovviamente interveniamo immediatamente, stiamo verificando, diciamo, partendo dai ministeri, dalle amministrazioni centrali, come sono state rispettate le norme sulla trasparenza. Perché attenzione, cioè io non voglio sembrare, diciamo, retorico o apparentemente idealista, sono una persona molto concreta, ma le regole sulla trasparenza sono il vero sale della lotta alla corruzione. Cioè la corruzione è un reato che chiede oscurità. Quando noi le cose le mettiamo in pubblico è molto più difficile. Certo, per esempio mettere tutte delle spese online, far sapere tutto. Perfetto. E questo allora, potrebbe... Per esempio, mi faccia dire una cosa, una delle cose sulle quali troviamo più difficoltà è che molti organi politici, organismi politici, intendo amministrazioni comunali, mettono tutto online, tranne i compensi, le consulenze, eccetera, eccetera. Sì. E su questo noi stiamo provando a lavorare. Ovviamente, per esempio, io vi devo dire che trovo un po' strano che noi abbiamo un potere di intervento, di ispezione, e poi nessun potere sanzionatorio. Certo, questo è un altro aspetto. È un tema che lei ha posto, come quello del completare le nomine. Lei ce l'ha detto il primo giorno quando è stato nominato. Non sono ancora state completate le nomine all'Authority? No. Non so se oggi ci saranno o no. No. Questo però lei, insomma, secondo lei è rallenta un po' la vostra attività, almeno? Obiettivamente sì, perché diciamo io sto facendo tutta una serie di attività da solo, diciamo, quelle che io ritengo di poter fare, perché un organo collegiale non può essere sostituito da un organo monocratico. Però su questo punto mi faccio dire una cosa, perché diciamo va detto l'aspetto problematico ma anche l'aspetto positivo. Queste erano nomine di tipo politico, cioè nel senso che come tutte le nomine erano un potere della Presidenza del Consiglio su richiesta del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Ministero della Funzione Pubblica. Il Ministro ha ritenuto di operare in modo trasparente, ha fatto una call. Ora, fai una call e ci sono 230 domande e tu poi i titoli li devi valutare, invece tu scegli 4 persone, e allora io dico... Per quanto mi riguarda, è meglio che aspettiamo una settimana ulteriore e proviamo a fare le nomine migliori. Sì, questo certamente. Perché la squadra deve essere all'altezza, anche perché, diciamo, parliamoci chiaro, questo è un posto nel quale ha un senso esserci se riusciamo a fare qualcosa. Io non mi sono dimesso dalla magistratura, il mio posto, diciamo, in Cassazione è sempre disponibile. Che vuol dire questo? Cioè dire o faccio o sono operativo oppure trovatevene un altro? Io sono convintissimo che mi daranno la possibilità di fare, ma è chiaro che io vado a fare una scommessa e vi assicuro, mi sembra di essere ritornato personalmente ai tempi della procura. Io sono entusiasta di tutte le cose che possiamo fare, che già abbiamo cominciato a fare, però voglio poterle fare. Questo è chiaro. Questo su questo le voglio dire una cosa, sono sicurissimo che me lo faranno fare. Al 100%. Due cose prima di concludere: si parla di estendere i suoi poteri anche sul MOSE dopo la vicenda Expo. Lei ne sa qualcosa o non se ne è parlato? Non so, non ne so nulla, ma credo che non abbia nessun senso. Non ha nessun senso. L'ultima domanda perché, invece... No, mi faccia dire sì. Però questa cosa, perché cioè, non è che ogni emergenza che si può verificare si può trovare un commissario. Sull'Expo può avere un senso per una ragione, perché lì ci sono termini stretti. Sul MOSE, tutto sommato, c'è un problema, i temi sono già da tempo superati. Ah, è chiaro, dal marzo ci sarà, diciamo, un rinvio ulteriore. Ma No, ma è chiaro, no, l'ultima domanda, sia flash però, perché sennò mi sfumano. Il DASPO per i condannati per corruzione si può fare anche per i politici? Ma, diciamo, detto così, insomma, io penso che il Presidente volesse dire una cosa, che bisogna stabilire l'interdizione a vita per i politici, cioè per i condannati per corruzione. Questo si può fare, prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ovviamente il DASPO è una cosa diversa. No, ma credo che lui abbia utilizzato una terminologia tecnica per dire una cosa che, diciamo, molti di noi condividono. Chi è condannato per corruzione, sì, ovviamente per certi tipi di corruzione, non può ritornare a fare attività politica. Questo no, certo, no, no, ma questo è certo, ha usato il DASPO dallo sport, ecco, dalla vicenda sportiva. La ringrazio, Raffaele Cantone, Gianfranco Bettin, alla prossima, a lunedì.